ABS Media Demo. ABS Media Demo. Tanti messaggi e una canzone per dimostrarti in amore. Sono ancora qua ad aspettare e non smetto di pensare. Mi ricordo serate intere passate sul divano insieme. ABS Media Demo. Cambiare tutto questo mi fa sbandare. Non so cosa vuoi, vaffanculo pure ai tuoi. Mi hai portato via gli amici, il mio stile era lì. Non so cosa vuoi, ABS Media Demo. ABS Media Demo.